fondamentalmente il Comune di Bologna, tramite dei fondi propri, alcuni fondi invece ricevuti dalla Regione, nel mese di marzo-aprile 2021 ha erogato questo bando per il sostegno all'affitto per nuclei con difficoltà economiche, tendenzialmente con nuclei con ISEE sotto una certa soglia, e per altri nuclei per cui veniva superata questa soglia veniva chiesto una differenza, qual era la differenza, diciamo, di reddito percepito rispetto all'anno precedente, cioè rispetto al 2020. Fondamentalmente su quasi 10.000 aventi diritto di contributo ci sono stati 3.800, quasi 4.000 aventi diritto che purtroppo per mancanza di risorse non potranno ricevere il contributo, e sono visti recapitare questa mail in cui viene appunto spiegato che il nucleo, il singolo in questione ha diritto al contributo, ma non per mancanza di risorse non potrà averlo. Certo, voi ritenete questa cosa inaccettabile? Ma sì, innanzitutto perché è già una misura di tipo emergenziale, quindi non va a risolvere un problema che, come abbiamo già detto più volte quest'anno, rispetto a varie situazioni che abbiamo notato in quest'anno e mezzo pandemico, non va a risolvere per nulla un problema che ormai era già strutturale prima della pandemia e è diventato ancora di più. E quindi già quel tipo di contributo era un tipo di contributo emergenziale. Per lo più, se anche questo tipo di contributo, che le persone comunque si aspettavano, aventi diritto, non hanno, diventa una situazione appunto inaccettabile, per cui le persone appunto saranno ancora più in difficoltà. Ci aspettiamo dei mesi ulteriormente difficili se le istituzioni non riescono a garantire neanche questi contributi emergenziali. Oltre a rilevare questa situazione, però, voi avanzate delle richieste. Sì, abbiamo chiesto, come già più volte quest'anno, in passato l'abbiamo chiamato un piano straordinario per la casa, abbiamo rilanciato adesso che viene un tavolo di monitoraggio permanente con dei punti ben precisi: l'allargamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, come abbiamo denunciato a Mardo, sono un sacco di appartamenti sfitti e non usati, ristrutturazione e allargamento del patrimonio, revisione dei requisiti di accesso alle graduatorie che sono enormi, hanno tempi di attesa infiniti, e con le nuove povertà che abbiamo già visto in questo anno e mezzo, con quelle che andranno ulteriormente a allargarsi in questo autunno, chiediamo che questi tipi di requisiti di accesso siano ormai vecchi, chiediamo l'istituzione anche di un tavolo di monitoraggio anche appunto per verificare e bloccare quei fenomeni di discriminazione verso stranieri sull'accesso alla casa, che anche questo non è scontato, ed è un tetto massimo agli affitti, al rialzo agli affitti, sull'esempio come di altre città europee come Berlino. Si è fatta una legge che pone, poi bloccata alla Corte Costituzionale tedesca, che pone un tetto massimo al rialzo degli affitti. Abbiamo chiesto più volte questo tavolo, questo piano straordinario per la casa, per chiedere che il comune si ponga come mediatore fra le migliaia ormai di inquilini, inquiline, precarie, precari, studenti, studentesse, ma anche lavoratori, nuclei familiari che magari stanno perdendo o hanno perso il lavoro, o come vediamo anche in tante aziende sul nostro territorio, purtroppo con lo sblocco dei licenziamenti vanno a perdere il lavoro. Chiediamo che il comune si ponga come mediatore, come è qua successo in altre città, istituisca una cabina di regia con anche l'aiuto dei servizi sociali di quartiere, che sono un osservatorio privilegiato sulle nuove povertà, degli sportelli autogestiti come il nostro, anche una cabina di regia, un tavolo di mediazione tra gli inquilini e i proprietari, perché diventa difficile ormai sempre per più gente far fronte a un determinato tipo di affitto, senza che per forza piccoli o piccole proprietarie vengano discriminati, quindi porsi anche come mediatore. Insomma, un approccio un po' più strutturale rispetto invece a misure emergenziali. Voi chiedete anche che vengano utilizzati in questo senso i fondi del Recovery Fund. Assolutamente, infatti noi abbiamo ravvisato che sicuramente 3,4 milioni dal comune, quest'ultimo fondo 2,2 dalla regione, però con la pioggia di milioni di euro che arriveranno anche nelle città nel recovery fund, noi crediamo e siamo disponibili anche al confronto se a dare un contributo, se però si parla di un piano serio, strutturale. Crediamo che almeno come primo punto dare questo contributo, studiando poi un meccanismo per poi riavere il rimborso, no, di questi soldi aggiunti che vengono dati dal Recovery Fund. Crediamo che non sia possibile che queste domande rimangano in evase con i soldi che arriveranno anche grazie al Recovery Fund. Crediamo che vada studiato un meccanismo per cui almeno il minimo sia stoppare questo buco, che già era una misura tappabuchi, ecco, scusate un po' il gioco di parole.